Purtroppo questa è la prima, insomma, denuncia all'interno del nostro rapporto. Pensate soltanto che nel 2024 fuori da scuola nel mondo erano 251 milioni di bambini, nel 2025 erano già saliti a 272 milioni. Questa causa, insomma, di guerre, conflitti, cambiamento climatico, la povertà che non rallenta, come sappiamo bene. E purtroppo però non c'è una risposta adeguata da parte della comunità internazionale. Infatti i fondi destinati all'educazione e agli aiuti all'educazione sono drasticamente calati. Nel 2024 erano 3 miliardi, ma con una copertura raggiunta in realtà solo del 29%. Pensate che per il 2026 sono scese le stime di aiuti che si potrebbero dare appunto all'educazione a 463 milioni. Questo indica proprio un mancato ingaggio da parte della comunità internazionale rispetto al diritto all'educazione. Mancano anche milioni di insegnanti. Sì, esatto, oggi mancano esattamente 44 milioni di insegnanti rispetto a quelle che dovrebbero essere, insomma, le necessità all'interno delle scuole. Noi sappiamo che il ruolo degli insegnanti è fondamentale non soltanto naturalmente per insegnare quelle che sono le competenze come la matematica, la scrittura, eccetera, ma gli insegnanti e le insegnanti sono proprio delle sentinelle anche di protezione in determinati contesti, come i contesti di conflitto che oggi sappiamo essere sempre di più. Quindi è fondamentale investire in educazione anche per aumentare quello che è poi il corpo docente. Perché a vostro avviso il mondo, insomma, le istituzioni mondiali si disinteressano e disinvestono sostanzialmente in educazione? Ma in generale noi assistiamo, soprattutto dallo scorso anno, diciamo l'avvio della seconda amministrazione Trump negli Stati Uniti, un generale abbassamento dell'interesse della comunità internazionale nei confronti di quelli che sono gli aiuti allo sviluppo e alle emergenze umanitarie. Questo vale per tutto il settore, bisogna dire. Per quanto riguarda l'educazione c'è un forte dibattito, ovvero che non tutte le scuole di pensiero considerano l'educazione come un intervento salvavita. Pensiamo alle, appunto, in casi ad esempio di catastrofe umanitarie. Sicuramente la distribuzione degli alimenti, ad esempio, o dei medicinali o dell'acqua viene vista come più prioritaria, e ovviamente non vogliamo dire che non lo sia. Quello che vogliamo dire è che l'educazione è altrettanto prioritaria, perché si tratta spesso di ridare un contesto di protezione, di normalità, non solo ai bambini e alle bambine, ma alle comunità tutte, soprattutto di iniziare già a mettere a terra quelli che sono i passi necessari per la ricostruzione, per il futuro delle comunità e del paese. Per questo anche il nostro Atlante e la riflessione che si sta facendo nell'ambito della cooperazione, insomma, è a riflettere su quello che è il reale ruolo dell'educazione. Infatti volevo chiederti che conseguenze poi produce avere meno educazione. Beh, le conseguenze sono tantissime. Sicuramente il primo tema è quello appunto della protezione, nel senso che noi oggi sappiamo che la scuola molto spesso è l'unico luogo in cui bambini e bambine hanno accesso ad esempio ad acqua pulita, a servizi igienici, ma anche a un pasto caldo banalmente, e a occasioni di socialità. Quindi la mancanza di educazione è sicuramente la mancanza poi di aspetti di prevenzione e di protezione. Pensiamo ai bambini e alle bambine con disabilità, dove spesso la scuola, insomma, è l'unico luogo in cui possono anche avere occasioni di socialità, ma anche alle bambine spesso non andare a scuola significa essere costrette, insomma, a sposarsi molto giovani, con anche conseguenze ad esempio sulla salute fisica e mentale se poi si incorre in gravidanza precoci. Quindi ecco, sono già sotto i nostri occhi le conseguenze della mancanza di un'adeguata educazione. Questo non dobbiamo pensarlo solo in contesti, diciamo, più poveri nel mondo, ma anche da noi. E infatti volevo farti un'ultima domanda che riguarda anche alcuni casi di cronaca che hanno portato a, come dire, anche a discussioni politiche. Penso ad esempio alla crescente violenza fra adolescenti, no? E spesso la risposta è securitaria. Si è parlato di metal detector nelle scuole, cose di questo tipo, mai però che ci sia stata una proposta invece che educativa. Voi proponete anche proprio un altro approccio. Sì, esatto, quello che proponiamo noi all'interno del nostro Atlante è l'approccio che utilizziamo nei contesti in cui lavoriamo, oltre 20 paesi, l'Italia e il mondo, ed è un approccio che sostanzialmente mette al centro bambini e bambine, ragazzi e ragazzi. Si chiama CARES, quindi cura in inglese, il prendersi cura dell'educazione, il rimettere al centro le voci di bambini e bambine, tant'è che il nostro atlante si chiama Learning Out Loud, imparare ad alta voce, ricordare che i ragazzi e le ragazze ci stanno dicendo delle cose. Ad esempio in Italia noi lavoriamo tantissimo in contesti, insomma, particolarmente vulnerabili, nelle periferie di grandi città italiane, e tutti ci stanno dicendo che la scuola non è a loro misura, che nessuna scuola chiede mai loro come stanno, se hanno delle idee da condividere, e appunto c'è questo approccio regolatore, molto, come è stato detto, militarizzato quasi, se vogliamo. E invece quello che proponiamo noi è di andare in tutt'altra direzione, perché in realtà le giovani generazioni hanno tantissimo da insegnarci, e se vogliamo costruire il nostro futuro è da loro che dobbiamo partire.